Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata. Vi ricordo la mail alla quale scrivere: unabusoalgiorno@radio24.it. Come sempre vi ricordo il mio blog Guardie o Ladri, lo trovate con un motore di ricerca. Vi ringrazio perché lo visitate davvero molto assiduamente e sono tantissimi i commenti che lasciate. Allora, ricorderete alcuni giorni fa una durissima polemica che ha coinvolto il sindaco di Ponteranica, un comune in provincia di Bergamo. Il sindaco si chiama Simone Aldegani, che ha rimosso una targa nella sua città intitolata Peppino Impastato. Per carità, ciascuno è libero di fare ciò che meglio crede e ciò in cui crede. E questo è una cosa che voglio sottolineare. Peppino Impastato chi era? Era un giornalista, figlio di mafiosi, ma non di mafiosi qua qua qua da quattro soldi, no, proprio una stirpe mafiosa, che ad un certo punto della sua vita decide di ribellarsi alla mafia e diventa il censore più spietato di Cosa Nostra nella sua regione. Per questo viene ucciso il 9 maggio 1978. Beh, secondo me questi qui sono valori vitali per un uomo e per una società. In risposta a quel gesto, molto plateale, poi ciascuno la penserà come vuole, io oggi voglio affrontarlo, questo tema, attraverso due iniziative che, dopo il clamore della cronaca per quel gesto del sindaco della provincia di Bergamo, sono passate un po' in sordina. L'una presa in Calabria, l'altra presa in Emilia-Romagna. E partiamo proprio dalla Calabria e do il buongiorno a Ilario Amendolia, che è il sindaco di Caolonia in provincia di Reggio Calabria. Buongiorno sindaco. Buongiorno direttore. Allora, voi avete fatto una cosa meravigliosa, avete scelto di intitolare la biblioteca del vostro paese, questa sala di lettura, chiamiamola, comunque la biblioteca del vostro paese, ad uomini del nord, Mauro Rostagno e Giorgio Ambrosoli, il primo uomo del nord che è andato a morire in Sicilia, anche lui, per essersi opposto alla mafia, l'altro un grande servitore dello Stato, Giorgio Ambrosoli. È una risposta alla, alla freddezza cinica degli amministratori del nord, caro Amendolia? Vuole essere questo, vorremmo essere precisi. Noi nel nostro paese abbiamo centinaia di strade nella Locride che sono intitolate a uomini del nord, da Alessandro Manzoni a Verdi, a voglio dire tutti i martiri del Risorgimento. Io per esempio sono nato in via Scaletta Silvio Pellico, tutti sanno chi è Silvio Pellico. Nessuno si è mai sognato di rimuovere una targa perché porta il nome di un uomo che è nato al nord. Questa è una logica che trovo assurda, voglio dire, perché soprattutto in questo momento storico. Un tempo le strade le intitolavamo anche a uomini della cultura, della scienza, della politica internazionale. Quanti nomi portano, sono intitolate a Kennedy, a Tolstoi, a tutta Pasternak, a tutti, certo, gli scrittori, certo, eccetera. Ora io credo che stia passando una logica assurda, la logica della contrapposizione, che potrebbe sembrare una logica di contrapposizione nord-sud, invece va oltre, perché quando si mette in moto la cultura della contrapposizione, oggi si rimuove la targa Peppino Impastato perché è siciliano, domani si rimuoverà la targa a Daniele Manini perché è veneto, oppure a Venezia, non so, Silvio Pellico perché non è veneto, e quindi poi si arriverà addirittura allo stesso quartiere. Ecco, quindi io la interrompo un attimo perché sposo completamente il suo ragionamento e non vorrei che oltretutto dietro questa scelta, ma non mi riferisco soltanto a quella del sindaco della Bergamasca, ma dietro queste scelte ci sia una sensazione sbagliatissima, quella in base alla quale la mafia è un problema del sud. Nulla di più sbagliato. Il presidente della Commissione parlamentare antimafia, Giuseppe Pisanu, il 30 settembre ha annunciato una relazione, un rapporto a breve sulla presenza devastante delle mafie al centro-nord. E il 1 ottobre, sulla presenza devastante, così come emerge dal rapporto Censis al sud, ne ho scritto invece io sul Sole 24 Ore, appunto del 1 ottobre, occupandomi da sempre di questi temi per questo gruppo editoriale. Ecco, non vorrei che passasse il principio che Cosa Nostra, l''Ndrangheta e la Camorra sono una questione del sud. Errato, sbagliatissimo. Allora, cambiamo regione di questa nostra splendida Italia e andiamo in Emilia-Romagna, dove incontriamo il sindaco di Spilamberto, bellissimo comune, Francesco Lamandini. Buongiorno Lamandini. Buongiorno a lei. Allora, invece voi avete deciso di dire no, per noi Peppino Impastato è una persona che va ricordata. Allora, ci dica come avete deciso di ricordare Peppino Impastato. Anzitutto è una risposta a una ferita che un comune del nord ha fatto alla memoria nazionale da parte di un altro comune del nord, nel senso che noi crediamo, sono anni che Spilamberto ha fatto delle scelte importanti, penso a tutta la zona industriale costruita all'inizio del 2000 che è stata tutta dedicata alle vittime del terrorismo e della mafia, Borsellino, Falcone, Guido Rossa, Bachelet eccetera. Abbiamo già da anni un rapporto stretto assieme al comune di Savignano e gli altri comuni limitrofi del nostro territorio con Don Ciotti e con l'associazione Libera, proprio perché riteniamo che il problema mafia sia un problema nazionale, sia un'emergenza nazionale, e crediamo che sia una scelta scellerata oltre che sbagliata andare a togliere una dedica a una vittima della mafia. Oggi può essere Impastato, domani può essere Falcone, domani e dopodomani Borsellino. Assolutamente d'accordo con lei. Intanto ricordo che le vittime della mafia da fine 800 ad oggi, ed è un calcolo per difetto, sono almeno 700, ma è un calcolo abbondantemente per difetto. Proprio l'Associazione Libera le ricorda ogni anno. Io vorrei fare una domanda breve alla quale vorrei che mi rispondesse sia il sindaco di Caolonia che quello di Spilamberto. Vale a dire, sindaco Amendolia, non è che però poi alla fine la lotta alla mafia è tutta in una targa o nell'intitolazione di una biblioteca comunale? Insomma, Caolonia non è soltanto questo, voglio ben sperare, no? Caolonia è un paese dell'accoglienza, è un paese che in questo momento ospita 60 migranti, innanzitutto perché crediamo nella solidarietà, e nel momento in cui c'è stata l'emergenza Lampedusa siamo stati uno dei pochissimi, dei tre comuni che abbiamo risposto mettendo gratuitamente a disposizione 60 posti, perché crediamo nella solidarietà umana. La lotta alla mafia è lotta, secondo noi, per una società più giusta. Lotta contro ogni forma di accaparramento, di avidità, di cinismo che oggi hanno tanta forza in Italia, perché quando si danno modelli sbagliati, quelli degli egoismi, che possono essere egoismi personali, regionali o comunali, è il terreno, il brodo di coltura in cui germoglia e cresce la mafia. Benissimo. Mi piace molto questa risposta, e ovviamente la stessa domanda la faccio al sindaco di Spilamberto. Prego Lamandini. Io credo che in questi anni, lavorando molto sulla trasparenza dell'amministrazione pubblica, lavorando molto sulla partecipazione civile, lavorando molto proprio sul senso civico dei cittadini, e quella è la cosa più importante. Poi ovvio che le istituzioni, le forze dell'ordine devono fare il loro ruolo, ma penso che anche Modena, la Repubblica, sia assolutamente attenta a questi fenomeni, anzi credo che sia una delle più attente in Regione Emilia-Romagna. Bene, allora io ovviamente sono contento che questo sia un impegno di ambo le amministrazioni. Torniamo un secondo al sindaco di Caolonia. Che tipo di risposta ha avuto dalla sua cittadinanza nel momento in cui ha reso pubblica questa scelta? Diciamo, la città di Caolonia, noi siamo un comune piccolo della Locri, e però non è un comune dove c'è una presenza mafiosa rilevante, perché non c'è un comune dove, per fortuna, la mafia è un fenomeno del tutto marginale, non ha momenti egemonici. È una comunità che sicuramente nella sua interezza respinge e rifiuta la mafia. Questo c'è scritto nel nostro statuto, questo facciamo giorno per giorno. E questo abbiamo deciso, mi consente di dire prego, questa cosa. Prego. Abbiamo deciso di dedicare una strada ad un muratore. Un muratore ucciso molti anni fa dalla mafia, ma non perché fosse un eroe antimafia, era un muratore che si è rifiutato di usare del ferro rubato che la mafia vendeva clandestinamente, perché contrariamente a quello che si pensa e a quello che qualcuno fa passare, da noi nel nostro paese la lotta di mafia è soprattutto lotta della gente umile che ogni giorno, pur vedendo accanto al mafioso, ha la forza di guardarlo negli occhi e di dire no, io non ci sto al gioco, e sono il 99,9% della gente che dice no alla mafia. Questo... Una cosa è dirlo nel salotto di Bruno Vespa, una cosa è dirlo nella strada dove si vive gomito e gomito col mafioso. Bene. Noi, questo muratore l'ha detto. Ecco, questo a me fa piacere che lei l'abbia detto, perché effettivamente poi alla fine un conto è riempirsi la bocca di belle parole, un conto è avere a che fare tutti i giorni contro l'oppressione criminale. Io ringrazio ovviamente i due sindaci di Spilamberto e di Caulonia, e per chi avesse ancora qualche dubbio sull'omertà al nord, io vi ricordo che alcune settimane fa proprio a Radio 24 noi sentimmo Modesto Verderio, un consigliere comunale di Lonato Pozzolo, comune dove sorge l'aeroporto di Malpensa. Ebbene, in radio e sul mio blog, potete andarlo a vedere, basta digitare Modesto Verderio, disse: sono solo a lottare contro le cosche dell''ndrangheta qui nel mio paese. Neppure gli abitanti, neppure quelli che mi hanno votato, vale a dire in gran parte quelli della Lega Nord ovviamente, sono venuti alla manifestazione contro le cosche che ho organizzato. Questo per dire mal comune mezzo gaudio, no, mal comune e basta. Grazie ai nostri sindaci, in regia Filippo Oreggi, in studio ad Antonella Migliaccio, e Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata.